Abbiamo lavorato fino a stanotte, alle 11:30 riprende il tavolo con il sottosegretario e appena rientro a Roma riprenderò a incontrare gli autotrasportatori con la speranza di trovare un'intesa e evitare lo sciopero. Moderatamente fiducioso, come è giusto esserlo in questi casi. Gli autotrasportatori hanno grandi problemi, un po' di risorse le abbiamo trovate, ci vuole un buon senso da parte di tutte le parti. Nei prossimi giorni ci saranno incontri anche a livello europeo. Ieri ho parlato anche con il commissario alla trasporti Tajani, perché c'è una parte che possiamo fare noi in Italia, però c'è anche la necessità che l'Europa prenda una decisione, e quindi nei prossimi giorni, attraverso incontri che avremo a Bruxelles, cercheremo di trovare un'intesa anche a livello europeo.